Radio 24 Reportage. Vendemmia 2014, tra piogge e polemiche, di Valentina Furlanetto. No, decisamente non è stata una vendemmia indimenticabile. Pioggia, pioggia e ancora pioggia. Una produzione vicina ai 41 milioni di ettolitri, ma in diminuzione del 15% rispetto al 2013. Questo dicono le principali organizzazioni della filiera vitivinicola, Agrinsieme Federvini e Unione Italiana Vini. Ma questo non vuol dire che ne risentirà la qualità. La Coldiretti non ha dubbi, la quantità di vino prodotto in Italia sarà in calo, con punte anche del 30% in alcune aree, ma la qualità non dovrebbe deludere. È stato necessario comunque un agosto di intenso lavoro per preservare la qualità del grappolo, osserva il consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, il presidente Innocente Nardi. Il Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene registra questa timbratura cosiddetta derivante dall'andamento climatico, quindi vini leggermente più freschi, più crudi, con grado zuccherino medio inferiore alla media appunto, però il poco sole presente ha comunque favorito una maturazione del prodotto e adesso che abbiamo terminato la raccolta delle uve e quindi possiamo già degustare i primi vini, possiamo dire che, seppur chiaramente un'annata particolare difficile, il prodotto dal nostro punto di vista è comunque di qualità. Il presidente del consorzio del Brunello di Montalcino, Fabrizio Bindocci. È stata un'annata, una vendemmia molto difficile, glielo dice uno che ha fatto 39 vendemmie. E tanti anni non avevo mai visto un'annata così difficile. Però va anche detto che gli agricoltori di Montalcino hanno lavorato bene nel vigneto. Perché i grandi vini rossi è la vigna che le fa, non il grande enologo. In ultimo anche un pizzico di fortuna, perché nel periodo durante la vendemmia spesso è tirato il vento di tramontana, che è un vento asciutto che asciuga l'uva, ha asciugato il terreno, ha portato via la pioggia. E nell'insieme, parlando con i colleghi produttori, è un'annata diciamo buona, senza esagerare, siamo moderatamente soddisfatti. Mai come quest'anno comunque la vendemmia tricolore è divisa in due, il nord che ha sofferto per le forti precipitazioni e il centro-sud che invece ha goduto di un tempo decisamente più stabile e soleggiato. Anche le cantine siciliane sottolineano la particolarità della vendemmia 2014, i vini saranno più leggeri, meno pieni di sole e di forza. Ma c'è un altro tema che riguarda i vigneti e le condizioni meteo eccezionali, ed è quello delicato del rapporto tra ambiente, paesaggio, vigneti e dissesto idrogeologico. In Toscana la regione ha approvato con la nuova legge urbanistica e, fra polemiche furibonde, il nuovo piano paesaggistico. Critiche sono arrivate soprattutto dal mondo del vino, visto che il piano impedisce l'aumento dell'estensione a vigneto in Toscana. Al centro delle critiche l'assessore al territorio della regione toscana, Anna Marson. Ora stiamo cercando di rispondere alle questioni che ci sono arrivate, alle questioni pertinenti e non alle offese, alle menzogne che ci sono state sul piano. Che il piano impedisca ulteriori impianti di vigneti, oppure addirittura che renda necessario l'espianto di vigneti per rimettere dei pascoli al posto dei vigneti, è una menzogna. Questo, cioè, ci tengo a sgombrare il campo da questo. No? Il primo elemento considerato è stato proprio quello dell'equilibrio idrogeomorfologico. tutte queste persone che hanno lavorato al piano hanno evidenziato anche una serie di criticità. Anche le monoculture vitivinicole possono creare delle criticità sia dal punto di vista idrogeomorfologico che dal punto di vista idraulico. Questo è un assunto in qualche modo generale. Ovviamente c'è stato l'interesse a trasformare a vigneto quanti più terreni possibile. In alcune di queste aree è stata rilevata da questo gruppo di studiosi, insomma, che ha partecipato con degli sguardi disciplinari diversi al lavoro, una serie di criticità. E quindi cosa propone il piano? Di alternare le culture? Ogni tanto sarebbe bene alternare un appezzamento caratterizzato da una cultura diversa. Il presidente del consorzio Brunello di Montalcino, Fabrizio Bindocci. Il vigneto in Toscana non è una criticità, ma è una risorsa dell'economia e del territorio toscano. Noi a Montalcino muoviamo come azienda Brunello di Montalcino, le 250 aziende che imbottigliano, muove 180 milioni di euro di fatturato, dà lavoro a 4.000 persone, non abbiamo dipendenti in cassa integrazione, non abbiamo dipendenti licenziati, anzi siamo in controcorrente, assumiamo giovani. È l'asse portante dell'economia toscana e sta andando bene. Ci dispiacerebbe mettere in moto i trattori e marciare su Firenze, perché vorrebbe dire che i nostri politici non hanno capito gli agricoltori e non hanno capito l'importanza dell'agricoltura nell'economia toscana e italiana. L'assessore ha anche fatto esplicito riferimento a quello che è avvenuto l'estate scorsa sulle colline del Prosecco e del Marzemino, a Refrontolo, nel Trevigiano, dove un'alluvione ha travolto una festa di paese facendo anche delle vittime. Anche in quel caso si era parlato della coltivazione intensiva della vite, ma Innocente Nardi rigetta al mittente le accuse. Non solo noi, chiaramente anche le autorità competenti hanno stabilito che la coltivazione della vite nelle zone collinari non ha inciso minimamente nella tragedia. È indubbio che lavorare su terreni particolarmente acclivi è difficile e che il cambiamento in parte climatico con queste cosiddette bombe d'acqua possono incidere indubbiamente. Noi siamo convinti che la presenza dell'uomo su questi territori particolarmente difficili sia un valore. Per Paolo Spagna, presidente dei geologi del Veneto, la tragedia di Refrontolo si colloca al centro di un problema idrogeologico più complesso. Non è un argomento che crea dissesto il vigneto in sé, ma quello che può creare dissesto è l'attività preparatoria al vigneto. Ecco, queste attività di sbancamento sono quelle attività che, se non sono controllate, se non sono fatte a dovere, danno, quindi mettono in condizioni di disequilibrio uno stato di equilibrio che invece la natura nel tempo si è creata. E noi sappiamo benissimo che la natura si riprende tutto quello che noi disfiamo, no? Prima o dopo lo fa, per cui è quello che noi andiamo denunciando. Proprio perché in effetti questi vitigni sono pregiatissimi, da parte dei coltivatori c'è l'accaparramento di fazzoletti di terreno, anche se non intere colline, che vengono strappate quindi al bosco. Un'altra obiezione dei produttori di vino è che le frane che ci sono state nel Trevigiano in particolare sono state nelle zone dove i vitigni sono lì dagli anni 50-60, non nei nuovi filari di viti che sono stati fatti appunto con nuovi sbancamenti. Questo non è vero, potrei portare decine di prove che in fase di sbancamento il giorno dopo vengono giù piccole frane, ma che queste servono per dare un'idea quanto è fragile il territorio, insomma. fare attenzione al paesaggio esortava già molto tempo fa il poeta trevigiano Andrea Zanzotto quando scriveva: «State accorti, co tutti sti feri, ste rede, ste vicu si fisse ormai, se no col primo sion de piova de sti tempa, abbas viendo tutta Rodolon. State accorti, ma forse mi qui parle da mort a morti. State accorti, non mettetevi a strafare con tutte queste viti così fisse ormai, altrimenti col primo gran temporale di questi tempi viene giù tutto, a rotoloni. State accorti, ma forse io qua parlo da morto a morti». Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.